Show. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Che la. Avanti. Vabbè, fortunio. E allora, lasciati. Ho capito. Ho detto lasciamo, sì, non è entrato nessuno. No, non è entrato nessuno. Dove dici? Perché sei così ansante? Perché sono così? Ansante. In che senso ansante? Zitto. Ah no, perché c'ho anche l'altro apparecchio acceso, il TMR, capito? E quindi stavo ascoltando uno e l'altro e non riuscivo a capire tra uno e l'altro. Tutto lì. Adesso va bene, sì, sto uscendo bene. Io, ascolta, no, non è che lo stavi uscendo bene, eri agitato, sembravi. Cosa ti stavo dicendo? Perché il TMR ancora gente c'è? È tutto pieno in PMR di gente, ma pieno mi, di tutto di più c'è. Su che frequenza sia adesso? 446081.25. Mi senti? Aspetta. Ciucu. Ti palito. C'erano due che stavano parlando, erano tutti, uno sopra l'altro, l'altro era in giù. Vedete, avete qualche ditta di quelle che stanno lavorando del 110% che lavorano anche la domenica. Ripeti, 446. 446081.25. Piccolo. Guarda benissimo, mi do bene, niente. Schiaccia, così fischia il barattino, schiaccia. Bravi. A che canale corrisponde questa frequenza? Canale 7 PMR. Che fischi avanti. Aiuta, parla però, parla comune, parla. E qui anche 27, mi figurate. Ecco perché non ho risposto. Già, quanto ci metti a mettere 446081.25? Io non penso, ma non sento nessuno. Ma io già li sento però, anzi lui sente a noi anche, perché lui è che 27 non sono alzato, sta ascoltando, vero che stai ascoltando, c'è poco, schiaccia, fatti schiaccia, di la verità, schiaccia, lo senti, fai la pernacchia Gianni. Quella non te la fa. Io fai la perna che a Gianni, se no faccio tutte figure. Pensa che stia parlando da solo con muro io. Non mi risponde, che cane morto. Ha schiacciato, però la perna che non me la fa. Peggio per lui allora. Gigas. Non sai fischiare. Fai. La segnale fa la scala, poi non so che cavolo sia. Hello, niente. No. Audio test 1-2. Audio test 1-2. Sempre acceso, oggi non ho sentito l'anima. Io ho acceso adesso che sto andando a lavorare, entro a mezzanotte, sono in via degli astronauti adesso. Vabbè, non credo ti servisse qualcosa di particolare. Vabbè, io stavo mettendo via la sabbia dei gatti e tante cose, eccetera. E quindi, vabbè, magari trattenere non credo ti servisse un controllo immediato, una cosa del genere. Poi sentendo il bip credevo che avessi ancora la radio portatile. L'altro invece te l'avevano restituito, confermi? Allora, la radio, quello Albrecht 5890, è riuscito a ripararlo fino a quello di Borore. E praticamente devo andare a ritirarlo appena ho un attimo libero. Nel frattempo mi sono preso il CRT SS 9009, che anche quello è una bomba. E niente, adesso sono con il presidente Bill, quello piccolino, in macchina, quindi adesso diciamo che come situazione radio sono più che a posto. Dai Marco, mi fa piacere che sei entrato almeno a salutarmi. Se hai da fare fai pure, non ti preoccupare. Io sono adesso giù alla rotatoria, finito il viadotto. Via. Sei 9.25, prossimo al 9.30. Sì, 9.009 dei tre è il più potente. L'unica cosa che non mi piace di quell'apparecchio è che scalda in estate, scalda molto, scalda pericolosamente quasi, però solo se fai passaggi continui, capito? Se stai più in ascolto, diciamo, sai, quando c'è una rotta che parli un minuto ogni 8 minuti, allora non succede niente, cappa. Sì, ma va accennato, Roberto, mi stava chiedendo per te qualcosa riguardo il 6009, il 7009 e il 9009. Vabbè, io ti avrei consigliato il 6009 perché è più intuitivo, cioè la maggior parte dei controlli sono tutti frontali, a differenza del 9009 che ha ben tre menu, cioè le varie funzioni particolari sono tutte all'interno di tre menu che si attivano con tre tasti diversi o tre manopoli diversi, adesso non mi ricordo esattamente, cioè li hanno un po' disseminati per varie manopole o tasti, capito? Magari non è molto pratico, però siccome è roba che non si usa quasi mai, in realtà quello che serve ce l'hai davanti, cioè volume, mic gain, ref gain, la frequenza, capito, il clarifier, quella roba lì. Sì, ho avuto modo di vedere anche il 6009 e niente, così mi ero un po' fissato, sai, quando ti prende la fissa di una radio, ho detto, e ho optato per il 9009. Comunque avevo visto le caratteristiche di un po' tutti, capito? E per quanto riguarda il surriscaldamento, hai ragione, sì, ho visto che un po' scaldicchia, ma anche l'Albrecht, quello mio, visto quando facevo passaggi lunghi, non faceva neanche attirarlo perché si bruciava addirittura. Per cui avevo dotato il mobiletto di una ventola collegata con l'alimentatore e quindi con quello riuscivo a raffreddare l'altra radio, e lo stesso farò con questo, capito? sì, sì, esatto. Delle ventoline, se le avessero messe di fabbrica, sai, tutto fatto bene, sarebbe stata un punto a favore di quell'apparato. Tanto in fabbrica magari costerebbe poco e niente farlo, bastava farlo pagare 10 euro in più e tutto lì, capito? Per il resto è un apparato che va bene, di modulazione, di ricezione, c'ha tanti watt, c'ha ben roba di 50 o 60 watt in banda laterale, lo stesso in FM, in AM ne ha 30 modulati, quindi è un apparecchietto comunque che ha fatto gola a molte persone, ecco. E poi che altro dire, purtroppo le ultime versioni del 6009 sono state, diciamo, aggiornate all'ultima versione, che ha una scheda più piccola, no? E ha un riduttore di rumore, però proprio il 6009 che con questa ultima versione sta dando vari problemi a più persone. L'ho letto sui forum, l'ho visto su YouTube, e quindi diciamo non sono perfette le ultime versioni del 6009, era meglio la vecchia che ho io, che il mio si chiama Intech 5005, capito? E c'è il display rosso anziché blu. Ok, va bene, vediamo sempre qualcuno che ti tenga compagnia fino al QTH Trabacco. Chi c'è sul 10, avanti? Oh boh, nulla, e oggi ho sentito, mi pare nulla, direi nulla qua sul 10, nulla, proprio niente. Io lo stesso, io stasera, diciamo, avevo acceso tipo alle 3 prima che uscissi, perché poi sono uscito intorno alle 5, sono uscito con mia moglie perché dovevamo andare ad Ozieri perché c'era la mamma ricoverata, e siamo rientrati che erano le 8 e mezza, le 9 meno 4, quindi poi non ho acceso più, però sino dalle 3 alle 4 ero acceso, ho provato a far chiamata, non ho sentito nessuno, neanche io. Poi poco fa lo stesso, ho acceso a casa, stavo guardando la partita dell'Italia, c'era Malta-Italia, però ero in cucina e col televisore acceso, ho acceso anche la radio, ho fatto due colpi importanti e non ho sentito nessuno, e quindi ho continuato a guardare la partita, adesso in macchina e ho sentito a te Marco. Io sono a Predaneta davanti alla, diciamo, l'hotel Vialetto lì, però non ti preoccupare, dai, se hai da fare, preparare delle cose, non ci sono problemi, dai, io rimango in ascolto se per caso entra qualcuno, e niente, ciccia, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, a casa devo sistemare un pochettino meglio tutta la situazione delle radio, perché adesso l'ho messa un po' in fretta, eccetera, devo fissarla bene, capito, col supporto che c'è, in maniera tale che mi rimane bella stabile, e poi devo sistemare la ventolina, capito, collegata con un pulsantino che me lo metto esterno, così quando vedo che scalda accendo e mi butta fuori l'aria calda e lo raffredda. A te il mic Marco. K io penso che per l'estate legavo una ventolina, una ventola tipica da computer, che è la stessa che uso sul lineretto, gliela legavo con un elastico, poggiata, poco più che poggiata, e ti dirò che faceva il suo sporco lavoro, sì, funzionava. E poi per l'apparato che avevi tu, il 5890, che devi tirare, io ho avuto tanti anni fa il fratello minore, il 5008, sì, la sigla era quella, 5800, esteticamente era uguale, però aveva qualche rifinitura in meno, diciamo, qualche funzione in meno. È andato benino finché poi, vabbè, c'era una storiaccia che il rivenditore mi ha bruciato la garanzia, ha inventato un sacco di balle, e la risoluzione del problema era elementare. Era un trimmer praticamente che andava in perdita dopo pochi minuti che lo accendevi, e in trasmissione gli cadevano i watt, capito? Crollavano i watt proprio, ed era una fesseria. Poi l'avevo regalato un radiatore di Alghero che se l'aveva messo a posto, capito? Ne avevo un altro uguale anche. Sì, ho capito, il mio praticamente non aveva niente di scheda elettronica, a una prima occhiata ho detto lo devo controllare meglio e non so se lo posso aggiustare, perché se è bruciata questa scheda, dice, bisognerà ordinarla e non so quanto tempo ci impiego a recuperarla, ma aveva detto Albino, quindi non so. Poi ha fatto un lavoro più certosino, ha scoperto qual era il problema, era il tasto d'accensione e spegnimento, che si è praticamente quasi bruciato, perché hanno usato dei fili troppo sottili, quindi lui ha procurato un altro pulsante d'accensione e spegnimento, ha collegato alla scheda, ha disaldato i due fili vecchi, quelli sottili, ne ha messo due di una sezione un pochettino più spessa, e praticamente mi ha mandato il video, la radio si accende perfettamente, non ha dovuto toccare altro, era solo un problema di tasto di accensione, capito Marco? Sì, insomma, niente di grave, niente di scheda madre, ecco, era una cosa abbastanza, tra virgolette, periferica. E così per quello che avevo io, quello vabbè, era un trimmer, anziché un potenziometro era un trimmer, però siamo lì. Cambiato quello, l'apparecchio era perfetto. Peraltro questi apparecchi che abbiamo noi erano la coppia del Magnum 257 americano, uguale, come il tuo però marcato Magnum. E quindi in America ne facevano gran parlare, adesso vabbè, sono passati tanti anni, quindi hanno fatto tanti altri modelli più recenti. Però era un apparecchietto valido. Va bene Carlo, io purtroppo devo staccare, devo anche buttare la differenziata, se non ti avrei fatto compagnia fino al tabacco, poi vediamo se entra qualcuno. Carlo, io ti saluto, ti auguro un buon lavoro, buon proseguimento di serata eccetera, e ci sentiamo quando capita, che io entro poco a parlare, mi piace più ascoltare, diciamo, dai. Ciao, buona serata Carlo, ciao. Ciao, grazie Marco di tutte le informazioni e della compagnia della chiacchierata. Grazie mille Marco, ci sentiamo, nessun problema. Io sono quasi a metà strada, tanto, dai. Ci sentiamo, buonanotte. Ciao, buona serata, ciao. Attenzione Mirko, città di Alghero, se sei in ascolto, cambio. Attenzione.